Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Maurizio Calzafare, buonasera da Rock Wave. Stasera, come ogni mercoledì, facciamo una variazione sul tema. Di solito presentiamo i gruppi live, stasera invece presentiamo un disco di un gruppo che ha molta storia, molta acqua è passata sotto i ponti, dal 1980, sono bolognesi, Central Unit. Buonasera Central Unit. Buonasera. Ciao. Avete fatto un buon viaggio? Sì, okay. Sì. Non ci sono stati problemi, la neve è già scomparsa, piove, quindi... Se ci avessero dato anche qualcosa, potremmo anche suggerire un ottimo ristorante che abbiamo trovato sulla strada, ma non ci hanno pagato, non diciamo dov'è. Benissimo, ok. Perché parliamo dei Central Unit? C'è un motivo, è uscito da poco tempo, grazie alla produzione di Vannuccio che è qui davanti, poi parleremo anche con Vannuccio, un nuovo disco vostro, però voi avete cominciato a suonare, a identificare il vostro universo sonoro dal 1980. Com'è cominciata la cavalcata fino ai nostri giorni? Fa un po' impressione a pensarci che sono già passati 30 anni, ma in realtà la nostra io mi chiamo Roberto Caramelli. Ci presentiamo prima, sì. Facciamo la presentazione della esattamente band, perché qui siamo in tre e ci sono io che suono abbastanza poco, faccio seconde voci e suono uno strumento che si chiama campionatore, che riproduce suoni vari, e abbiamo invece il tastierista, compositore della maggior parte della musica e arrangiatore Riccardo Lolli, e poi c'è sassofonista e altri strumenti a fiato Alberto Pietropoli. Assente giustificata la sezione ritmica, che è composta da Enrico Giuliani, il bassista, e Andrea Ventura, la batteria. E ci sentono via internet in ogni caso. Sì, esatto. Noi siamo nati nel 1980, eravamo programmatori di una radio di Bologna che si chiama Radio Città, già dal 76, e la musica che trasmettevamo ci ha fatto venire voglia di far qualcosa anche noi, perché era un momento in cui, da un lato, grande fermento musicale e sociale, particolarmente a Bologna ma non solo, e dall'altro, per la prima volta, c'era questa possibilità nuova data anche a non professionisti di fare musica con strumenti che non costavano più milioni, ma che effettivamente consentivano anche a non professionisti di mettere in pratica quello che era il loro estro artistico. Ma c'è una particolarità: l'idea di questo nome nasce da un motivo. Sì, sì. E sì, lo spieghiamo. Sempre. Perché voi avete una colorazione, tra virgolette, classica, ma il classico è solo una colorazione. Poi cosa c'è di vero? Allora, Central Unit è un nome che nasce un po' dalla nostra passione per la tecnologia nuova, che negli anni 80 significava piccoli computer, significava... grazie all'aiuto di un amico ingegnere elettronico, l'interfacciamento di una normale banale batteria non programmabile con il computer per renderla programmabile, significava un po' passione per i computer. Il computer è costituito dall'unità centrale e dalle varie periferiche, e l'idea di chiamare Central Unit la band nasceva proprio dal fatto che intorno alla musica, che era il nocciolo centrale del nostro progetto dal vivo, c'erano una serie di altri eventi, di altri media che venivano utilizzati per fare uno spettacolo proprio multimediale. Noi andavamo sul palco con proiezioni davanti e dietro al palco, andavamo sul palco con una scenografia e andavamo sul palco con attori, con ballerine, con culturisti, ne abbiamo fatte diverse, insomma, e retroproiezioni, insomma, e l'idea era proprio questa qui, che la musica fosse al centro di un universo multimediale che solo in quegli anni cominciava a dispiegare le sue ali. Noi abbiamo fatto colonne sonore per una rassegna di fumetti che si tenne alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, dove nella parte dei fumetti di Giorgio Carpentieri, che è quello che è il nostro amico che ha disegnato tutte le nostre copertine, uno, guardando le copertine sue, le sue opere, poteva ascoltare la nostra musica. E abbiamo sempre, insomma, siamo sempre state connotati in questo modo. Non c'è mai stata solo musica nelle nostre rappresentazioni. Era un tentativo molto coraggioso. Si parla del 1980, sì, quindi non è mica semplice portare avanti un discorso di questo genere. Sì, infatti, si utilizzavano diapositive, si utilizzavano teli. Per la scenografia si utilizzavano teli che erano stati dipinti appositamente. Quindi c'era proprio una collaborazione che girava intorno alla band, che non era soltanto del fumettista o dello scenografo, ma implicava relazioni con diversi media, insomma. Sì, la band era solo il progetto, praticamente il progetto band, che poi sviluppava in tanti diversi settori. Esatto, era, diciamo che la band era il progetto musicale che si contornava di altri media per essere più aderente, insomma. Qual è stata la difficoltà di mettervi in gioco? Perché sistemare tante diverse sfaccettature non è mica semplice. Beh, diciamo che noi non avevamo la necessità o l'intenzione di controllare scrupolosamente tutto quello che accadeva intorno a noi mentre suonavamo, perché dal progetto nasceva una, diciamo che la collaborazione con i professionisti che erano intorno a noi lasciava la possibilità a loro di esprimersi sulla base dell'ascolto preventivo della nostra musica, di esprimersi come meglio credevano. Ecco, l'ascolto preventivo della vostra musica, questa è una frase molto importante e interessante, cioè è una musica che poteva aspirare a tante sfaccettature, a tanti movimenti, a tanti prese di posizione. Io credo di sì, e credo anzi che fin dall'inizio la nostra musica sia stata caratterizzata dalla... come posso dire, è sempre stata identificata anche da persone a cui noi non l'avevamo suggerito, o forse anche al di là di quello che noi stessi, di cui noi stessi ci rendessimo conto, come musica per immagini, una musica adatta per colonne sonore, una musica adatta per accompagnare, anche se non visivamente, delle immagini che potevano essere anche nascere direttamente dentro la mente dell'ascoltatore. A me viene in mente una cosa, non so, c'è un parallelismo, forse non so se proprio attinente, però all'epoca a Bologna, sempre a Bologna, c'era un'etichetta, forse Vanuccio mi può dire se è vero quello che dico, che ristampava o stampava i dischi dei Pearl Before Swine. E Pearl Before Swine era un gruppo pazzi scatenati, ma musicalmente molto avanti, e fondevano la musica, il folk tipicamente americano, con delle sensazioni visive a volte molto particolari. E mi sono venuti in mente voi, ripercorrendo nella memoria il discorso di quell'etichetta bolognese. Io non so a quale etichetta tu ti riferisca, perché all'epoca, diciamo nel 1980, era imperante nel bolognese la Italian Records, che era l'etichetta che aveva, ma non credo che sia quella. No, non era quella, era un'etichetta bolognese che ristampava queste cose molto particolari, questo musicista strano. Forse la Base Record. Esatto, la Base Record. La Base Record portava avanti un discorso molto particolare, assolutamente non convenzionale. La Base Records era quella che si appoggiava a Nannucci, era un progetto collaterale del magazzino Nannucci, che era un negozio di dischi. E io ricordo proprio la Base Record che portava avanti dei progetti decisamente al di fuori della solita norma. Sai, a Bologna ne succedevano diverse di cose al di fuori della norma. Musicalmente parlando. Sì, sì, e non soltanto, anche dal punto di vista sociale, diciamo. Ecco, Bologna era un po' un laboratorio, un po' voi per il DAMS, voi per il fatto per il DAMS soprattutto. Soprattutto per il DAMS, credo. Quindi anche voi siete stati un laboratorio, allora possiamo dire questo. Sì, io però non so da questo punto di vista quanto noi ci differenziassimo dalle altre band, nel senso che... Allora, più di adesso, ecco, mi viene in mente che posso dire, forse allora più di adesso c'era la necessità di appartenere a un filone, di identificarsi come facente parte di una corrente. Noi eravamo nel pieno del movimento New Wave, che seguiva il movimento punk, che da noi aveva avuto risonanza, però insomma era diventato subito una cosa quasi un po' di moda, come dire. C'era questo movimento New Wave che aveva tante sfaccettature e che però era imprescindibile, nel senso che tu non potevi non identificarti lì, altrimenti nessuno ti ascoltava. Certamente. Adesso per fortuna non è più così. Adesso, per non cui è più adesso così. Noi siamo arrivati al punto in cui scopriamo dai giornalisti che facciamo musica prog. Esatto. I giornalisti hanno scritto proprio questo a proposito dell'ultimo disco. Sì. Facciamo un salto, arriviamo all'ultimo disco che è praticamente di adesso. Un disco molto bello, secondo me, molto interessante. È uscito dopo 6 anni dal precedente. Qua c'è il discografico che poi potrà dire molte cose su questo disco. Abbiamo la traccia numero uno. La traccia numero uno per iniziare a questa. Il disco si chiama I See You, è uscito da un per iniziare paio di mesi, ad aprire la finestra e parlare del disco. Lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Bene. We'll be right back. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. È bello per il DJ questa troncatura all'ultimo momento. Netta. Sì, ti viene quasi da commentare il jingle invece che il pezzo. Esattamente. L'ultima cosa che mi è rimasta impressa. Va molto bene per i registi, jingle, soprattutto. Ok, a proposito di regia, abbiamo Michele Ottosoni in regia. Ringraziamo anche Alberto Pisco, che è il nostro curatore e organizzatore delle trasmissioni di Rock Wave. Riparliamo, ritorniamo indietro nel tempo. Questo è il disco nuovo. A proposito del disco nuovo, visto che sei te che hai scelto la scaletta, hai messo l'ultimo pezzo che hai scritto come scaletta numero uno. Come diciamo mai? Una cosa a vantaggio degli ascoltatori, perché il nostro conduttore sta indicando col dito Riccardo Lolli, ma non so se tutti lo sanno. Certo, Riccardo Lolli, hai ragione. È un pezzo in extremis per concludere il disco, è stato su un'idea di Pietro Poli. Io adesso indico Pietro Poli, esattamente, che è arrivato con questa idea melodica che abbiamo realizzato piuttosto velocemente e ci è sembrato adattissimo come apertura dell'album. Sono stato anche costretto a censurare il batterista, che si era lanciato in questi voli pindarici di Tom, questi stop continui, esattamente. E poi il resto della band mi ha fatto, in fase di missaggio che tocca a me il missaggio, ho capito, mi ha fatto censurare il batterista, ma è durato un mese la censura. Dopo ho rimesso la traccia originale perché non potevo sopportare questo freno. E il nostro discografico cosa vi ha censurato? Discografico, vieni vicino al microfono. Ci sono. Ecco, bravo Vannuccio, dai. Allora, il discografico non ha censurato praticamente niente, ma a metà strada ho bocciato completamente il progetto che avevano messo. Perfetto. No, c'era diciamo, facciamo una piccola premessa. Allora, il primo disco che è stato stampato su MPN Records con i Central Unit è stato il loro secondo disco, Internal Cut, di cui ricevetti il demo, se ben ricordo, a fine 2002. Disco che trovai subito estremamente innovativo, un disco strepitoso, effettivamente, devo dire, mi piacque subito e subito prendemmo degli accordi per la stampa, anche se poi in definitiva uscì nel 2004. Per piccole cose tecniche più legate magari all'incisione che alla qualità della musica. Non sai cosa fu il problema? Il clearance dei campionamenti, che abbiamo usato un sacco di campionamenti, di sampling, ci ho messo un anno da Demetrio Stratos a Fred Bongusto, per i comuni mortali puoi spiegare un momentino. Ci ho messo un anno per avere il permesso dalla vedova di Demetrio Stratos a usare la voce di Demetrio in uno dei pezzi che ci sono all'interno. Adesso è chiaro, era capito, fondamentale. Altrettanto cercammo disperatamente di avere Fred Bongusto, non ti ha dato il permesso, non siamo riusciti a arrivarci e ci hanno detto lasciate perdere, perché tanto quello, anche se dà il permesso, il giorno dopo non se lo ricorda più. Perfetto. Okay. No, comunque il disco fu anche rimissato poi nello studio Hawk di Roma da Fabio Liberatori e Gianrico La Rosa. Il disco era particolarmente pregevole per avere un missaggio fatto in casa, per cui preferimmo che fosse fatto molto professionalmente, e effettivamente poi il risultato fu premiante. Questa era la premessa di Internal Cut per arrivare invece ad ICU. Quando ascoltammo i primi lavori, e mi sembra fu verso il 2008, ascoltiamo le prime cose. No? Gran riunione a Bologna, ascoltiamo e dissi: ragazzi, non ci siamo. E non c'eravamo, ma per un motivo molto semplice, perché mentre il primo disco era stato fatto, le prove del primo disco era stato fatto tutti insieme, loro provavano fisicamente tutti insieme, per il secondo disco avevano preferito, o comunque per ovvi impegni che ognuno di loro aveva, registrare le proprie parti in separata sede. Uno arrivava, registrava il suo pezzo, dopodiché qualcuno si sommava, eccetera, e si sentiva che era completamente disomogeneo. Cioè loro, bravissimo Roberto prima, prima a ricordare questa unità centrale, ma l'unità ci vuole. Effettivamente loro la dimostrano quando suonano insieme. Ho capito. Quando siamo arrivati ad avere questa nuova stesura, i brani erano gli stessi, la stesura era completamente diversa, allora secondo me hanno fatto effettivamente un capolavoro. Okay, in questo caso, ecco perché diciamo anche i tempi lunghi poi di realizzazione di questi album. Per quello c'è stata una tua bocciatura dal punto di vista non musicale, ma solo di coordinamento. Erano scoordinati. Mancava, sai, quella cosa che ti fa dire. È un bel disco. Ho capito, capito. Sì. Si sentiva che era che mi viene scollegato. Si è scollegato, esattamente. Anche se ovviamente c'era tutta la base musicale, la base creativa, la base anche realizzativa in qualche modo c'era tutta. Certo. Mancava però l'anima del disco. Ecco, adesso facciamo. Posso confermare in toto la versione che ha dato Vannuccio. Esattamente quello che è successo. Io vorrei anche aggiungere una cosa che non mi è mai capitato di dirla prima, ma siccome voi conoscete Vannuccio almeno quanto lo conosciamo noi, forse anche meglio, perché so che qui è un abitué, io vorrei dire che è stato per noi una gioia, un privilegio, è stato per noi una manna dal cielo trovare tra i diversi discografici a cui noi abbiamo mandato il nostro demo nel 2001, certo. 2002 forse l'abbiamo mandato, ma è un demo che abbiamo fatto nel 2001 che conteneva in nuce quello che poi è venuto fuori in Internal Cut. L'abbiamo mandata a diversi discografici, una buona percentuale dei quali aveva conoscenza del nostro passato. Noi eravamo fermi da 18 anni, da 16 anni non facevamo più niente, niente che fosse uscito. Certo. Però abbiamo trovato diverse persone che conoscevano i Central Unit prima. Però trovare un discografico che non soltanto ci conosceva, ma che... capiva profondamente quelle che erano, anche senza bisogno che noi gliel'avessimo spiegato, quelle che erano le nostre motivazioni, le nostre ispirazioni, come noi avevamo il nostro approccio alla musica e che lo apprezzava, e quindi che apprezzava tanto che addirittura la prima cosa che ha fatto lui a livello di pubblicazione è stata la ristampa dei nostri dischi. Sì, ma vi conosceva già Vannuccio Tanella. Lui ci conosceva già dall'epoca, noi ci siamo conosciuti appunto, come dice lui, questa decade, però lui sapeva già chi erano i Central Unit. Certo. Trovare un discografico che non soltanto ci conosceva, ci apprezzava e ci ha pubblicato il disco, ma che è stata una guida, voglio dire, importantissima per avere indicazioni per come fare questo ultimo disco, che è un disco di cui noi tutti siamo effettivamente entusiasti. Questo disco, io voglio dirlo, secondo me, senza le indicazioni di Vannuccio non sarebbe stato così bello. Così bello. Quindi noi non potevamo avere niente, cioè certo. Meglio di così non potevamo sperare. Quindi io questo lo dico pubblicamente, perché lui personalmente non glielo dico, perché sto alla larga. Ok, benissimo. Adesso facciamo un momento come i gamberi e proseguiamo il racconto. Vai, allora siamo arrivati al discorso del progetto che si è sviluppato, che sta... Doveva un qualcosa di discografico, doveva arrivare qualcosa di discografico, un'incisione. Parliamo dell'inizio. All'inizio noi abbiamo fatto in casa, con quello che potevamo, un demo tape che conteneva, tra l'altro, quello è stato proprio destino, perché conteneva un pezzo dei quattro che erano... Sì. Uno era una versione di un pezzo di Tuxedo Moon che noi non conoscevamo ancora. Dopo parliamo un momento anche di Tuxedo Moon e perché. Che erano, diciamo, il nostro tributo, certo, ai Tuxedo Moon, che erano, insieme ai Joy Division, autori dei due pezzi che... ascoltando i quali insieme noi dicemmo dobbiamo per forza far musica anche noi, ecco. I due pezzi erano Ian Curtis di Alberto, Transmission dei Joy Division, certo. E l'altro era dei Tuxedo Moon, era What Use. Esattamente. Use. Due pezzi clamorosi di quell'epoca lì, e allora noi sulla base di questi pezzi ci dicemmo dobbiamo farla anche noi sta roba, invece che soltanto trasmetterla dobbiamo cominciare a fare qualcosa anche noi. Quindi Tuxedo Moon erano in qualche modo responsabili della nostra nascita. Indiretti per adesso. E quindi noi facemmo questo pezzo che era un tributo, due pezzi originali e poi un pezzo che era messo lì così. Per ironia. Questo pezzo era un pezzo che aveva una cadenza disco, quindi aveva la cassa in quattro, era un pezzo da ballare, ed era una storia triste, autobiografica forse, del nostro tastierista, che era il compositore principale, che era il predecessore di Lolly, quello che costruiva la musica in prima battuta, suonava la tastiera, ed era una storia di un programmatore che a sabato sera si ritrovava da solo, allora se ne andava in giro per la strada, ma c'aveva questa cadenza disco. Il pezzo fu un successo clamoroso e fu trasmesso ossessivamente nelle discoteche rock che andavano di moda all'epoca. In quell'epoca. Scusate, devo bere. Ok, va benissimo. Vabbè, ricordo fu anche in classifica, sì, Radio Lussemburgo, no? FM Bruxelles. Radio Bruxelles. Quindi, come si fa a fare un po' di settimane a Radio Bruxelles in classifica? Non abbiamo idea. Un caso. Non abbiamo idea. Io posso dirti però che noi abbiamo fatto il disco, siamo passati sui Taxi Do Moon, sì, che, di cui noi come radio abbiamo organizzato il primo concerto italiano nel dicembre dell'80. Questo è molto importante. I Taxi Do Moon erano a Londra che registravano Desire, il loro secondo album. E noi abbiamo detto, Nitti soprattutto, devo dire, noi poi gli abbiamo dato una mano, ma Nitti ha detto, noi questi dobbiamo portarli a Bologna per forza perché sono fantastici. Quindi grandi contatti e roba di questo genere, finché alla fine ci siamo riusciti. Loro sono venuti col charter a Bologna, hanno suonato all'Antoniano e il giorno dopo sono ripartiti. Siamo rimasti amici e nell'82, quando hanno finito la loro tournée europea che finiva a Polverigi, al festival di Polverigi, loro si sono fermati a Bologna. Peter Principle si è fermato a Bologna. Il bassista lui, eh? Ed è stato il bassista ed è stato con noi nel mese di luglio dentro lo studio di registrazione dove abbiamo costruito questo Central Union. Quindi il rapporto, l'amicizia è nata per caso, è nata per caso perché volutamente con tanta forza avete imposto per modo di dire. Noi abbiamo fatto i salti mortali. Per avere i Tuxedo a naturalmente Bologna, per loro questa è stata una cosa importante perché loro sono immediatamente diventati un fenomeno, certo, in Italia. Certo. Hanno avuto un successo come in pochissimi altri paesi, anche se alla fine hanno deciso di restare nei Paesi Bassi perché lì i musicisti prendono un contributo dallo Stato. Ah, questo non lo sapevo. Questo è il motivo per cui loro stavano lì, perché loro hanno trovato l'America qua. Esatto, no? Esattamente. Loro erano uno di New York, quell'altro era di San Francisco, di Pueblo, Colorado, perché sì. Blaine Reniger è di Pueblo, Colorado, e quell'altro era un californiano. Poi c'avevano Bruce Gadoldi che era un californiano, Winston Tong che era un della mafia cinese che stava anche lui a San Francisco, e quindi insomma era una band molto molto molto eterogenea, ma molto underground, molto underground, ma molto, molto difficile in alcuni momenti. Erano nel giro dei Residents, certo, però anche quelli molto, molto strani, molto particolari. Però insomma loro erano molto underground in America, certo, invece certo. Qui sono diventati un fenomeno in particolare in Italia, richiestissimi, pagati molto bene, e in qualche modo lo dovevano anche alla nostra pionieristica, a voi praticamente, di fare il primo concerto, quindi okay. Siamo rimasti amici per benissimo quello. Sono le 22:36, torniamo, facciamo come i gamberi un'altra volta, un altro pezzo dal disco nuovo che avete, la traccia, Michele, qual è? La traccia numero 2 la sentiamo e poi voglio sapere da te come l'hai arrangiata. Sta indicando l'ovvio, sì. Se come l'hai arrangiata, ok, va bene. Thank you. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, stiamo piacevolmente conversando con i Central Unit, parlando del disco nuovo e parlando del loro percorso sonoro. A proposito di questo pezzo, questa coda lunghissima, volutamente lunga, volutamente strana, volutamente, io posso dire anche psichedelica alla fine. Sì, dunque nasce tutto come colonna sonora per un cortometraggio che ho prodotto con alcuni amici, tra cui Gianni Gitti, che non so se qualcuno ha sentito nominare in zona, è stato il responsabile del primo disco degli Schiantos, sì, e dei Confusional Quartet, Gas Nevada e altre cose, Stupid Set, e collaborava con l'Italian Records. Insomma, a parte questo, abbiamo realizzato un cortometraggio sull'Appennino tosco-emiliano e questo in una versione precedente faceva parte della colonna sonora. Ho mantenuto in questa versione appunto questi cori naturalmente virtuali, sì, e orchestrazioni in più, per renderlo realizzabile nel nostro album abbiamo inserito la batteria, l'abbiamo reso come un po' l'idea di una ballad americana, diciamo, soft jazz rivisto alla nostra maniera. Chiaramente sì. E il sax suo cosa c'entrava? Anzi, c'entra molto. Beh, il sax tenore ripete quella che era la melodia sottintesa dagli accordi di Riccardo, e quindi è veramente così una raffigurazione di un canto un po' malinconico anche in lontananza, perché parte in maniera molto molto delicata, un po' in secondo piano, come volevo rendere l'idea di un qualche cosa che si avvicinava progressivamente, e quindi il sax parte un po' da lontano per poi prendere più corpo man mano che il pezzo si inoltra, no? E la melodia è praticamente venuta fuori suonando insieme sopra gli accordi di Riccardo. Gli accordi è una strana cosa, perché gli accordi danno già la melodia in sé, sì, è un esatto, po' una cosa particolare. È stato l'origine ancora precedente è un gioco che ho fatto col vocoder, suonando in diretta, governando il vocoder virtuale su un canto gregoriano, e da lì mi sono segnato questo giro di accordi che mi piaceva. Tiro una battuta, una provocazione. Il finale di questo pezzo mi può ricordare, non so se siete d'accordo, Vanuccio può dire anche lui il suo parere, qualcosa di Robbie Robertson, della band, da solista. Robbie Robertson, io conosco, l'unica cosa che conosco di Robbie Robertson penso che sia il primo disco che fece da solista nell'88. Un po' questi echeggi indiani al finale. Ha fatto quel disco di tutta roba indiana. Esattamente, sì. Alla fine, non dico che sia vicino a questo, però qualcosina, qualche quid, qualche flash mi ricordava quelle cose là. Beh, questo coro, forse la parte più evocativa poi del disco di Robertson, effettivamente può dare un'idea. Lui era molto più orientato però nell'americanità, sì, musicalmente, e da un certo punto di vista loro si sente che sono assolutamente europei. Assolutamente europei, sì, però forse hai ragione, un evocativo da quest'idea del fumo che esce dal camino quasi, no? Quindi un po' quello che poteva succedere in un campo indiano, ecco, questi fuochi. A me è venuto questo momento qua, questo flash, può capitare questi momenti. Sai anche cosa ricordo invece? Sì, la canzone che fu dedicata da Robbie Robertson a Rick Danko, Fallen Angel. È vero, anche questo. Fallen Angel è vero, poteva questo avere questa idea. Sì, avevo questa idea. Comunque, se c'è una cosa che io adoro è sentire qualcuno che a commento dell'ascolto della nostra musica dice: mi viene in mente qualche cosa, evoca che qualcosa. Non necessariamente è altra musica, possono anche essere altre cose, il discorso dell'unità centrale di prima. E la nostra caratteristica di musica evocativa e di musica in qualche modo melodica, pur nell'utilizzo di strumenti e anche di modalità che sono a volte anche puramente elettroniche, è una cosa, non voglio dire che ci teniamo molto, ma una cosa che comunque ha sempre fatto parte del nostro DNA nel corso degli anni, a cominciare dalle prime composizioni arrivare alle ultime. Sì, è una cosa positiva secondo me. Sì. A proposito del DNA, delle prime composizioni, io voglio arrivare al famoso disco della CGD, quello che ha sconquassato tutto e poi non ha fatto assolutamente nulla. Ci sono dei risvolti divertenti. E adesso li spieghiamo, abbiamo tempo fino alle 24, c'è poco da fare. Allora, il disco della CGD nasce così. Noi facciamo questa... Diciamo l'anno prima. Allora, nell'82, estate 82, Peter Principle sta in studio con noi per 3 settimane e noi facciamo quello che poi sarebbe diventato il nostro primo album, Central Unit. Con questo nastrone passato in cassetta e il primo disco fisicamente presente, io ottengo un contatto attraverso un amico comune con il nuovo direttore di gestione, così si chiamava, della CGD, che si chiamava Daniele Doglio. Daniele Doglio aveva scritto dei libri, perché lui era un esperto di media, aveva scritto dei libri con Beppe Richieri, che è un luminare. Beppe Richieri è uno che ha girato il mondo a fare conferenze, ha lavorato per il Ministero della Cultura francese, insegna all'università, è un luminare. Succede che io lo conoscevo perché avevamo degli amici comuni a Radio Città. Eravamo in buoni rapporti, siamo stati anche a fare una vacanza insieme. Ricordiamo che tu eri anche DJ, Sì, noi non ci chiamavamo così, noi eravamo dei programmatori musicali perché la nostra non era una radio, allora la terminologia era questa, la distinzione era singolare, perché noi le chiamavamo tutte radio private ed erano sostanzialmente quelle che esattamente adesso in America vengono chiamate radio pubbliche, perché in America radio private sono tutte le radio, anche la CBS sì. privata, invece le radio pubbliche sono quelle che non hanno un padrone e che quindi vivono anche di sottoscrizioni degli ascoltatori, esattamente quello che succedeva a noi, e noi le chiamavamo radio private. Però fra le radio private la distinzione era sempre nella terminologia dell'epoca fra le radio commerciali e le radio di informazione. Ovviamente il rapporto era 90-10, certo. Cioè le radio commerciali erano quasi tutte, certo. Avevano nessun ritegno nel mettere la pubblicità, non avevano problemi particolari di musica che trasmettevano, se non il fatto che doveva essere musica che doveva essere gradevole, perché altrimenti non passava in quelle radio. Poi c'erano le radio di informazione, dove l'aspetto centrale del medium era proprio il fatto di avere un rapporto con il territorio in cui il territorio di riferimento in cui le radio erano recepite dalle antenne, per cui la musica era un corollario importante a questo progetto base. La capostipite di tutte queste radio a Bologna è stata ovviamente la mitica Radio Alice, che è nata nel 75, quindi il primo anno è nata subito, insieme a Radio 101 e pochissime altre. Radio Alice è stata una delle prime. Nel 76 è arrivata Radio Città, che quindi non ci ha messo molto, ed era una delle 3 o 4 radio di informazione che c'erano a Bologna. Noi facevamo programmazione musicale ed eravamo quindi un dipartimento di minore importanza rispetto invece alla informazione. La radio era stata fondata da quelli che è una cooperativa ed era stata fondata da quelli che prima facevano un giornale che si chiamava Il Foglio, quindi da dei giornalisti. Certo. Ed era di proprietà di una cooperativa di cui chiunque poteva farsi socio, insomma. Quindi noi non ci siamo mai chiamati DJ, perché il DJ aveva questa caratteristica intanto di dover cambiare il proprio tono di voce quando era davanti al microfono, e questa è una cosa buffa perché succede ancora adesso, e poi il fatto di dover trasmettere delle cose che andavano di moda. Invece noi avevamo proprio questa totale libertà, io in particolare, che siccome ero uno sfaccendato, facevo l'università, mi occupavo delle notti, io partivo alle 10 di sera, andavo avanti almeno fino alle 2, ma finché ne avevo voglia, e la mia libertà di trasmissione era assolutamente totale. Io ho fatto delle serate intere solo di Frank Zappa. Bene. Dalle 10 di sera fino alle 4 di mattina o non so, solo Beatles anche. Ah, bene. Benissimo. Oppure musica richiesta, però sì, filtrata da noi. Esattamente, un certo tipo di richiesta. I nostri ascoltatori erano in grado di mettere in piedi una scaletta interessante solo con le loro richieste, perché naturalmente se non erano, magari ascoltavano un'altra radio, certo, se non erano amanti della musica un po' differente. Ok, abbiamo questo famoso... Abbiamo questo prodotto con il quale io entro in contatto tramite il professor Richieri con Daniele Doglio. Daniele Doglio è diventato direttore di gestione da pochi mesi, da pochissimo tempo. Quindi in una multinazionale come la CGD evidentemente esistono delle dinamiche per cui al nuovo direttore non si dice di no. E questo vale per il direttore artistico, perché tanto a tutti loro fare un disco in più, un disco in meno, non cambia. Che gli cambi poco. Certo. Se il nuovo direttore di gestione, che è quello, è come il direttore generale, arriva e dice: ma ci sono questi che mi piacciono, nessuno si sogna. Io ho esperienze lavorative dove succede esattamente uguale anche in altri campi. Quindi noi diamo il nostro materiale a Daniele Doglio lo ascolta e dice: mi piace, l'ho fatto sentire al mio direttore artistico, che ha detto non male. Quindi insomma noi ci presentiamo a Milano, ne parliamo, la Caterina Caselli viene dentro, mi guarda in faccia e si mette una mano sul seno sinistro e dice: la vostra musica mi ha colpito al cuore. Quindi vuol dire che in effetti è stato ascoltato. Certo. Per cui, bene, fantastico, facciamo il contratto, 3 anni di contratto, facciamo 3 dischi e tutto quanto, si comincia a parlare tutto. A un certo punto il direttore artistico dice: vabbè, allora adesso bisogna lavorare sullo sto provino. E noi diciamo: no, come, momento, questo non è mica un provino, volete scherzare? Questo, cioè, era il vostro, questo qui, cioè, ci il ha prodotto messo, nostro. Questo l'ha lavorato Peter Principle dei Tuxedo Moon, non è assolutamente possibile toccarlo. Questi si sono guardati come dire, questi sono scemi, hai capito? E noi abbiamo preteso che il disco restasse così. Il disco suonava da far schifo. Difatti ti posso dire che quando l'ha ripreso in mano Vannucci, Vannucci, che ha rifatto la ristampa in CD, sembra un altro disco, perché ci ha fatto... poi con minore possibilità probabilmente tecniche rispetto al fatto di avere il nastrone originale, certo, quello che ci avrebbero fatto in CGD nell'83. Quindi un po' questa cosa qui che li ha un po' indispettiti, un po' noi che quando andavamo a parlare con il consulente artistico oppure il consulente d'immagine trovavamo gente che non era abituata a roba come noi, no, certo. Noi andavamo su, poi andavamo in mensa e c'erano i Pooh, c'era la Gilio Cinquetti, uh-huh, c'era la Bertè, con cui ci fu un episodio straordinario di intemperanza da parte sua mentre noi eravamo presenti, perché Tozzi era così. C'era Umberto Tozzi, c'era Pupo che entrava nella stanza e diceva: ciao ragazzi, come se fossimo amici da 20 anni, invece mai visto. E c'era Enrico Ruggeri, quindi, certo, cioè, questo, voglio dire, era un'etichetta con della roba seria. Però noi dovevamo per forza essere o una nicchia o destinati a scomparire. È andata nella seconda versione, nel senso che noi su quel disco lì non abbiamo riscontrato alcun tipo di investimento da parte della CGD. Niente. Perché lei ha stampato credo 1000-1500 dischi e li ha sparati per i suoi 1500 negozi un disco a copia, non l'ha mai promozionato, nonostante ci abbia mandato un paio di volte a fare qualche cosa di un minimo di rilevanza. Noi siamo stati in Rai a fare Milano Suono nell'agosto dell'83. Sì. 83. Nell'agosto dell'83 siamo andati, ti immagini, Milano in agosto, cioè, non c'è nessuno, va dire. C'era una coazione in giro che faceva spavento, però comunque quella serata lì c'erano i Material, c'erano Ivano Fossati, c'era della, cioè, roba seria, insomma. Gente importante, insomma. E quindi abbiamo partecipato a qualche rassegna, però niente, il discorso fondamentalmente è finito lì. Quando è stato il momento di cominciare a parlare di qualcosa di nuovo, loro cercavano di indurci a fare musica più commerciale. Ho capito. Quindi era come, non so, avere, no, adesso non mi viene in mente, però volevano utilizzarci per qualcosa per cui non eravamo adatti, aveva sicuramente qualcuno di meglio, certo, per fare musica commerciale. E quindi... noi ci siamo un po' spiazzati rispetto a sta cosa, ci abbiamo anche onestamente provato, però i risultati non erano buoni. E alla fine, di comune accordo, abbiamo sciolto il contratto. Questo però aveva provocato qualcosa nella band, per cui dopo pochi mesi la band si è sciolta. Ho capito. Si è avuto un effetto disgregante. Era proprio. Purtroppo sono cose che capitano, è capitato a voi. Anche se il disco doveva uscire, cioè, una volta le etichette alternative non c'erano, o meglio c'erano, però c'erano i cantautori più che altro, non c'erano le band. Beh, il primo disco noi l'abbiamo fatto con la LM Records di Lido Adriano, provincia, sì, di Ravenna. E anche quello fu una cosa, noi lo facevamo ascoltare, questo era uno che faceva dischi in giro, e disse: ma caspita, bello, interessante, ve lo produco io. Quindi noi a costo zero abbiamo avuto questa cosa, e alla fine insomma andava anche bene così, capito? Certo. Perché non era mica, non potevi mica darlo per scontato che avevi chi ti produceva, no, il vinile. Non era come adesso che ti fai il CD a casa e ne fai 4.000 copie e poi lo mandi in giro. Esattamente. Poteva rimanere la cassettina in mano, certo, a vita. Esattamente. Ok, adesso facciamo un altro salto con i gamberi, un'altra volta, e ritorniamo al disco di adesso. Che traccia abbiamo scelto, Michele? La numero 3. Il titolo me lo dite, sì? La numero 3 si chiama Bank Full of Money. Mm. La sentiamo prima e dopo ne parliamo, sì, cosa dite? Ok. Okay. Thank you. everything's for sale. You can buy a new car or a 60-inch screen. Money gets you all you need, except the heart that's given. Living in his paperwork, bright lights everywhere. Lifespan queuing up just to pay the bills, waiting on the one love dream never gets fulfilled. Banks are full of money, still they ain't giving up. Insurance pays you when you're dead, while you need it when you're young. Banks are full of money, still they ain't giving up. Insurance pays you when you're dead, while you need it when you're young. Every knock upon the door, someone wants to sell. Insurance or a lifetime you, ticket for heaven or hell. Every time a phone rings, it's your lucky day. You want a prize, you are the best, still you got to pay. Walking down the street, a man jumps on your back, wants to give you two tails of this for a deal of that. Try to watch your favorite flick on a TV screen. Now a movie that takes two with the adverts in between. Banks are full of money, still they ain't. Insurance pays you when you're dead, while you need it when you're young. Banks are full of money, still they ain't giving up. Insurance pays you when you're dead, while you need it when you're young. Thursday, May 15th, 2008. Bill X Fire Transmissions are to arrive. Blu Radio. Spot. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Parliamo un momento del pezzo prima e poi facciamo il giochetto. Siamo un po' in ritardo, di solito il giochetto lo facciamo alle 23. Voi non sapete che cos'è il giochetto? Vanuccio lo sa e anche Nino lo sa, che è qui presente. Ma adesso ve lo spieghiamo. Non c'è niente, forse di preoccupante. Spegnete la radio. No, no, assolutamente. La radio deve sempre rimanere accesa. Parlami un momento del pezzo. Dunque, questo pezzo è una proposta, mi hanno proposto, dice, però prova a prendere in mano questo pezzo, questo nostro demo del 1990, composto da Natale Nitti, con il testo di un inglese madrelingua che è Alec Ludon Gray, e l'ho arrangiato, è piaciuto a tutti. C'è stato un inserto, a metà brano circa c'è un inserto registrato con un registratore portatile a cassetta, mini cassetta, non so, una cosa del genere. Una mini cassetta di quelli per le interviste. Dimmi. Che lui mi aveva fornito, dice prova a fare a ripetere un ritmo del genere con una batteria elettronica. Io gli ho messo direttamente. Sì, era una cosa che avevo registrato a casa con una tastierina che ha una batteria elettronica interna. L'avevo registrato con questo portatile. E quindi il suono particolarmente scatolato di recente è esattamente quello che ho utilizzato. Poi c'è un campionamento, farlo, che qui c'è già. Ho capito. Sì, infatti c'è un campionamento anche da un cartone, da un episodio della Pantera Rosa. Ah, bene. Perché dice esattamente il titolo della canzone, quindi l'ho visto per caso con mio figlio, dico questo lo devo mettere. Devi posso inserire. Fare un piccolo inserto sulla scelta di questo pezzo. Noi dopo esserci sciolti intorno all'84 ci siamo ritrovati due volte, una volta nel 90 e una volta nel 93. Sempre con eravamo sempre noi quattro di base, cioè io, Pietro Poli, Giuliani e Nitti. Una volta ci siamo trovati con un altro chitarrista e una volta ci siamo trovati con un altro tastierista, non abbiamo tirato fuori niente di particolarmente interessante, quindi abbiamo solo dei demo tape che non sono mai usciti. Qualche anno fa Nitti, ormai emigrato a casa sua a Taranto, con cui però eravamo rimasti in contatto, disse: io ho provato a riascoltare il materiale degli anni 90 e secondo me c'è qualcosa che potrebbe essere interessante. Perché non provate ad ascoltare The Banks Are Full of Money, che era il titolo molto scolastico originale del pezzo? E in effetti, dopo un ascolto, Lolli disse: potrebbe essere il pezzo ritmico che manca per completare il disco. In effetti è andata proprio così. In effetti, infatti, è stato Nitti ce l'ha riproposto dal nostro passato e filtrato, ovviamente rifatto, però in effetti è un pezzo che ci ha soddisfatto. Poi è filtrato anche da Vanuccio. Adesso Vanuccio sta dicendo qualcosa su questo, filtra tutto. No, io volevo dire questo. Infatti, è una cosa che mi è sempre piaciuta del loro modo, sia nel comporre che poi nel fare, nell'eseguire i brani, la musica che fanno, è che loro sono, secondo me, geniali da questo punto di vista. Loro riescono a trovare, come faceva l'esempio della mini cassetta prima, no? Del pezzettino, loro riescono a incastrare queste cose che sono divertenti, sono di veri e propri pezzettini di cartone animato, veramente, e sono inseriti o su basi molto serie, mettiamola così, o sono comunque giuste al momento giusto. Cioè loro hanno questa capacità, secondo me straordinaria, di riuscire a mettere insieme magari come posso dire, con i pezzi di vetro ti fanno un mosaico di Ravenna. Questa è una cosa geniale, secondo me, di Central Union. Capito, cose che apparentemente diverse poi vengono unite da un esempio chiarificatore può essere nel disco precedente Internal Cut, la nostra cover di Riders on the Storm dei Doors, che vede presente il campionamento di Una rotonda sul mare di Fred Buongusto. Io l'avevo fatto come per scherzo, quando Vannuccio l'ha sentito gli è piaciuto follemente, immensamente. Ok, benissimo. Allora adesso sono le 23:12, facciamo un giochino. Vannuccio lo sa, lo conosce, il giochino è molto semplice. qualche disco da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento. Comincio io? Cominci te. A proposito di cominciare, la webcam è in funzione, quindi vi stanno vedendo. Bene, cioè, chi? Peggio per voi. Tutti vi stanno vedendo. Dunque, se scelgo dei doppi valgono. A proposito, una regola ferrea di questo programma da tanti anni a sta parte, non si può copiare. Quindi loro due non possono copiare, chiaramente. Ma penso che sia difficile. Adesso vado un po' così. Dunque, il primo che mi viene in mente, perché ne parlavo io con un amico, è Blondel degli Amazing Blondel. Come mai hai scelto il folk inglese, che a me piace particolarmente, elisabettiano? Non lo so, è un disco che mi prestò un amico, per me è un disco perfetto dal primo solco all'ultimo. A differenza degli altri, che sono i precedenti, sono leggermente inferiori secondo me, pur essendo più noti. Però... hanno avuto un momento di grande popolarità in Italia, un anno di popolarità. E mi raccontarono anche che li rubarono tutto a Napoli, non riuscirono ad arrivare nel nord Italia con i concerti. Questo è vero. E poi non lo so, c'è qualcosa sicuramente dei Pink Floyd. Cosa di Pink Floyd? Barrettiano o non barrettiano? Forse a Magamma. Una via di mezzo. Pseudo barrettiano. Ci posso mettere dentro un disco dei Porcupine Tree, Signify? Ma come no, certamente. Signify dei Porcupine Tree, che mi ha sconvolto. L'album bianco dei Beatles. Che qualcuno dice il Sgt. Pepper vero dei Beatles, qualcun altro dice no, Sgt. Pepper è Sgt. Pepper. Sono dei pareri diversi. Adesso andare avanti è sempre più difficile. Inserisco un album di Christy Moore per rimanere al folk. Come il folk? Ami particolarmente. Mi piace molto il folk inglese e irlandese. È irlandese. Christy Moore è un grande folk singer irlandese. Sì. Ma comunque si sente la derivazione melodica di quello che scrive Riccardo. Ma ti chiedo anche a te, Vanuccio. No. dovevi metterne 50. Ecco, perfetto. Tocca a te allora adesso. No, io se non si può copiare l'album bianco. Non si può copiare. Ho preso lui l'album bianco, lo trovo più, ma qualche cosa trovo dei Beatles. Sì. Anzi, sapete cosa faccio, visto che sono furbo? Mi porto la doppia compilation 62-66, quella rossa e blu, mi porto quelli, così tutte due, quindi, esattamente. I Beatles si deve avere. Una cosa che mi porto di sicuro è il Ballo in maschera di Verdi con Domingo e la Ricciarelli. Bellissimo. E poi senz'altro qualcosa di Mozart, tipo la 40 o la 41, oppure che ne so. Comunque mi porto della musica classica, perché resto facilmente mi stanca, della musica classica e dell'opera, oppure i Beatles, che è più classico di così non si può. Esattamente. E altre cose non saprei, forse mi porterei, non so, però forse mi stancherei presto, il commercial album dei Residents, che almeno sono 40 pezzi, io ne ascolto uno al giorno e mi vanno avanti un mese e mezzo. Quello è una bella scelta, una scelta proprio scatenata. Talmente variegati incredibili. Sono 40 suggerimenti. Suggerimenti, esatto. Dei flash. Un minuto, quindi tac, un po' impegnativo. A te? Premettendo che sono sempre stato in primis un fan beatlesiano, forse anche perché quando avevo 10-11 anni mi mandarono a comprare un 45 giri da portare ad una cugina che andavamo a trovare, e quello del negozio mi diede Please Please Me, quindi lo misi, mi ricordo proprio che lo misi sul giradischi e rimasi folgorato dal suono nuovo che usciva dal giradischi. Quindi praticamente quelli dei Beatles, loro hanno già citato, però anche Rubber Soul, Revolver, sono bellissimi. E non hanno detto niente dei Rolling Stones? Sì, appunto, citiamo i Rolling. Io un disco che amo molto i Rolling Stones è il loro album psichedelico, Their Satanic Majesty. Quello è bello, è stato è accusato, cioè il famoso She's a Rainbow, detto è meraviglioso. A parte quello, proprio l'album, l'album come concerto e come notevole. Suono è stato, però è stato accusato di essere una coppia fatta male, una risposta fatta male di Sgt. Pepper. Sai, lì i Beatles erano una spada di Damocle sulla testa di tutti. Tanto che quando uscì Sgt. Pepper, Brian Wilson fermò il suo progetto di uscita in America. È vero. Perché rimase proprio ammazzato da quello che sentì. Poi comunque dal loro punto di vista non avevano nessun problema a pescare poi ispirazione da tutto il mondo. Paul McCartney ha sempre detto che il suo grande ispiratore è stato Brian Wilson, quindi non è mica una novità. E poi guarda, l'album che per me è stato la mia svolta, diciamo, artistica quando ero al liceo, dove avevo già un breve passato di cantante del complesso della parrocchia e di bassista con un basso che voleva replicare Lofner di Paul McCartney, ma in realtà era un eco. E, il disco che mi fece diventare un suonatore di fiati fu Stand Up dei Jethro Tull. Bellissimo. Perché lì mi innamorai del flauto traverso, tanto che mi procurai proprio un lavoretto sotto Natale per potermi andare a comprare il primo flauto. E poi da lì, poi dopo arrivò anche il sassofono, perché tanto le dita, mi disse sì. L'amico che mi prestò il primo sax, sai, le dita sono messe nella stessa posizione. Sì, poi fanno così, facciamo pezzi di rock jazz inglese, due fiati, bla bla. E potrei comunque citare naturalmente dei fiatisti come dischi che vorrei portarmi via, come Maceo Parker o come naturalmente il compiantissimo Michael Brecker, al quale ecco, un po' mi sono ispirato per l'idea della ballad che abbiamo sentito come secondo pezzo. Ho capito. Benissimo. Questi. Benissimo, un'ottima scelta. A me piace molto la scelta di Christy Moore, che è un musicista sì. Che io amo particolarmente. Il folk inglese mi è sempre piaciuto, inglese o irlandese. È molto molto interessante. Ok, adesso sentiamo un altro pezzo da che album, che pezzo abbiamo? Adesso stiamo andando all'indietro. Noi abbiamo ascoltato tre brani. Abbiamo, esattamente. Tre brani da ICU, che è l'ultimo album. E questo invece è un brano che viene da Internal Cut, il nostro disco precedente. Quello di sei anni fa, sempre prodotto da Vannuccio. Da Vannuccio, chiaramente. Il nostro primo lavoro con il vostro Vate praticamente adesso. No, sì, certo, praticamente ormai mi sono sbilanciato. Volevo dire che i tempi non sono così, i nostri tempi non sarebbero così elefantiaci, nel senso che forse potremmo farcela fare anche un disco ogni 3 o 4 anni invece che ogni 6, però in effetti ci sono sempre delle cose, anche Internal Cut abbiamo perso un anno per avere i permessi dei campionamenti. E poi abbiamo avuto un po' di tempo che abbiamo perduto per il discorso della copertina. Certo che è molto. Citiamo un momento quello che fa tutte le vostre copertine. Allora, dobbiamo parlare un attimo di Giorgio Carpentieri. Certo. Fumettista di punta nel movimento che non. Si parlava di Central Unit, che non riguardava soltanto la musica, ma senz'altro riguardava anche il fumetto. Ricordiamo Frigidaire. Certo. E lì c'erano i Liberatore, i Mattotti, c'era Tamburini, Pazienza, esatto, bravissimo. E poi c'era Giorgio Carpentieri, che a noi piaceva particolarmente per le sue spigolosità, per il suo futurismo. E lo conoscevamo perché poi Giorgio Carpentieri è di Bologna e Funitti, ancora una volta, che gli andò sotto dicendo: noi abbiamo un disco da fare, potresti farci una copertina. Ascoltò il materiale, che erano poi i famosi primi quattro pezzi, e venne fuori con una copertina che era miracolosa, perché la copertina del primo disco è straordinaria, in due colori, con questo uomo sospeso in mezzo a tanti poliedri, e in viaggio verso non si sa dove, ma nello spazio. Una copertina fantastica. E da lì è rimasta la passione. Il secondo disco, cioè il disco della CGD, era molto poco impegnativo, c'era un'immagine stilizzata, però sempre fatta da lui. Dopo invece, quando si è trattato di fare i dischi, quelli con la MP Records, devo dire che ha fatto dei lavori molto interessanti. Sì, molto belli, molto belli. Va detto per precisione che la copertina di Internal Cut è stata fatta appositamente a seguito dell'ascolto del materiale musicale. Sì. La copertina di ICU, il disco che è uscito adesso, è stata scelta appositamente dopo l'ascolto della musica, ma fra materiale che lui aveva già fatto e che era inedito. Ho capito. Quindi lui aveva una serie di cose che noi avevamo anche visto, che non erano mai state pubblicate da nessuna parte. Ha detto: ragazzi, siccome lui non fa più questo lavoro, lui lo fa solo per noi, lui non disegna mica più, adesso è impegnato con una televisione, vive a Roma, fa computer grafica, esatto. Sigle, lui ha fatto tante sigle televisive, all'epoca faceva le sigle di Mr. Fantasy, insomma ha fatto delle cose anche che gli hanno poi consentito di stabilizzarsi, diciamo, su Roma. E dopo aver ascoltato la musica ha detto: ragazzi, io ho provato ma non ho il tempo di fare una copertina, però avrei questo materiale, in particolare c'è questa immagine. E noi allora abbiamo risposto titolando l'album ICU sulla base della copertina. Perfetto. Quindi c'è stato un gioco di ping pong fra noi e lui, per cui alla fine il progetto comunque quadra, perché la copertina è bellissima. Anzi, oggi il nostro amico Alberto Pietro Poli si è presentato prima di partire qui con una gigantografia per ognuno di noi della copertina, che è assolutamente fantastica. Bellissimo. Ho pensato di fare un regalo ai miei amici di Natale, così tanti anni, anche per suggerire questo momento, certo, che per noi è particolarmente emozionante e gratificante anche per le recensioni che stiamo ricevendo. Quindi volevo esprimere la nostra contentezza regalando ad ognuno di loro una riproduzione da mettere poi sotto cornice da, e da appendere, soprattutto nel caso di Riccardo, che fra un po' avrà la casa nuova, quindi ci sta bene. Muove, stiamo... sarà la prima cosa che appenderai. Ci sta bene, ci sta bene. Ok, sentiamo il pezzo allora. Ok. Thank you. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. 23:32, abbiamo un'altra mezz'oretta per parlare ancora della vostra musica. Siamo arrivati alla fine di questo progetto con la CGD, la Caterina Caselli. Poi ci sono stati altri progetti, poi c'è stata una interruzione di 18 anni mentre il disco andava e noi abbiamo il microfono spento. C'è stata una, siete stati sempre in contatto praticamente, mi dicevi. Sì, siamo sempre rimasti in contatto, anche se poi ognuno di noi sviluppava delle esperienze musicali collaterali anche molto diverse. Per esempio nel mio caso io cominciai a collaborare con un gruppo che faceva addirittura musica swing degli anni 50, ecco, quindi, che si chiama Jumping Shoes, un gruppo che esiste tuttora, e quindi allargavo anche man mano che sono andato avanti, ho sempre allargato i miei orizzonti anche di ascolto semplicemente. E ci furono appunto due tentativi di riunione della band, come ti diceva, diceva Roberto. Microfoni spenti, con collaboratori diversi, che però non portarono a nulla, fino ad arrivare alla proposta di riunione per celebrare i 20 anni di fondazione della band nel 1999? Sì, 99 per il 2000. Nel 2000. L'idea di Nitti era quella di fare finalmente, cosa che non siamo mai riusciti a fare, un concerto insieme con il Taxi Domon. Certo. Perché c'era qualcosa da celebrare anche per loro nel 2000. Infatti loro hanno fatto poi 20 Years in One Night. Vero. L'hanno fatto proprio in quel periodo lì. e però noi non c'eravamo. Dobbiamo sempre ricordare che sono venuti in Italia, sono venuti a Bologna grazie a voi. Li abbiamo portati in Bologna per la prima volta, soprattutto per merito di Nitti. Esattamente. Ritornando un momento a questo pezzo molto lungo, molto significativo, io l'ho targato come pezzo mistico nel senso positivo del termine. Ispirato. Ispirato. Si allargava, come hai detto giustamente, il tuo nome non mi ricordo mai. Alberto. È particolarmente ispirato, sì, soprattutto è uno dei pochi testi che mi piacciono, che mi piace come sono riuscito, insomma un testo che rimane sul filo del sogno, adesso non sto a tradurre, a raccontare, però insomma. E poi ci sono anche dei campionamenti magari un po' subliminali che nessuno riconosce eccetto me, che però danno quelle cose, c'è un nanosecondo di Robert Wyatt che fa... Come mai hai campionato Robert Wyatt? Non si sa. Non lo so, io ho campionato un sacco di cose, poi ne ho eliminate altrettante, io vado a scalare, vado a togliere quando in fase di avanzamento dei lavori, insomma. E questo non so se si nota questo, però io lo sento, insomma. Ma se vogliamo, mi dà quel che è di canterburiano. Vero. Se vogliamo scavare però internamente a proposito di canterburiano, dobbiamo sempre fare una trasmissione io e Vanuccio su Canterbury, la faremo qualche, lo troveremo il sistema per farlo. Sì, ci sono i soft machine a larghe vedute, molto a larghe vedute. Può darsi. Perché c'è qualcosa di male citare i soft machine? Assolutamente no. No, assolutamente no. Tu cosa dici? No, io dico che loro effettivamente riflettono, come hai sentito prima, dei loro dischi, no? Certo. Dei preferiti. Loro riflettono sicuramente quello che hanno sentito. Il fatto è che loro ne hanno sentito una barca di roba. Quello è il discorso. Quindi loro sono stati bravi innanzitutto a porsi all'esterno di quello che hanno sentito, ma hanno fatto tesoro dell'esperienza. Quindi la cosa bella, ecco perché spesso e volentieri non dico di non essere d'accordo con le recensioni che hanno, ma quando nella recensione si tende a dare una qualità al loro lavoro, difficilmente sono d'accordo con il recensore. Il recensore trova dei riferimenti, io li trovo assolutamente unici nel loro genere. Finora non ho ancora ascoltato niente che possa dire ecco, questi potrebbero essere i Central Unit. Effettivamente, e secondo me questo dipende sia dalle diverse esperienze che hanno avuto, le diverse cose che hanno sentito, e comunque ritorno a quel discorso di genialità che usavo prima. Cioè loro riescono con un non nulla effettivamente a tirarti fuori un'idea geniale. Un pezzo, sì, costruire un pezzo con degli input appena accennati. Forse è l'unica cosa che posso collegare a un progressivo classico. Progressivo girava attorno a un tema, certo. E avevi 20 minuti di una suite giocata attorno a un tema. Ecco, forse loro hanno questo. Fortunatamente i loro brani sono un po' più brevi, perché 20 minuti sarebbero un po' troppi, però hanno questa capacità, un tema sviluppato in qualche modo anche molto classico come concetto, però effettivamente è una loro. Quindi il classicismo nasce da questo, parlando del classicismo prima, no? Beh, sai, Roberto parlava di Mozart, sì. Parlava di Verdi e sicuramente tante altre, perché poi ha fatto una scelta ovviamente nella Cernita fra le sue cose, molto probabilmente anche questo influisce in qualche modo nella... Questo pezzo molto ispirato si chiamava Internal Cut ed era quello che aveva dato il titolo all'album precedente. Vorrei dire, per così una nota a piede di cronaca, che Internal Cut è il più intrigante e il più carino tra gli anagrammi di Central Unit che noi abbiamo trovato. Ah, bello questo! E quindi abbiamo scelto come titolo dell'album e come titolo di questo brano, che era un brano trainante. Un altro brano però molto significativo, che secondo me c'era in questo disco ed è quello che apre l'album, è quello che ci ha fatto perdere tanto tempo, perché io, per avere l'autorizzazione con la poco tecnologica signora Strada, si chiama, Daniela Ronconi, che ho ringraziato e che alla fine abbiamo avuto un rapporto molto carino, anche se non ci siamo mai visti. E lei l'ha fatto ascoltare al bassista, come si chiama, Fariselli, sì. E ha detto una cosa fantastica, poi gliel'ha fatta ascoltare per telefono Fariselli, perché lui era riuscito a scaricarla e lei invece non c'era riuscito, io l'avevo mandata anche a lui, e questo brano è quello che apre l'album precedente, si chiama La Croix ed è il brano che ha appunto il campionamento della voce di Demetrio. Adesso magari potremmo farlo sentire, visto sì, perché no. possiamo far sentire la vai, qua. Il pezzo numero uno. Il pezzo sì. numero uno, ok, perfetto. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Questo brano si chiamava La Croix. Volevo dire una cosa. Dimmi. È uno dei quattro brani in cui noi ci avvaliamo del contributo di Marco Tamburini alla tromba. Il contributo di Marco Tamburini ha reso questo di gran lunga il nostro disco più jazz. Sì. È un disco che ha un'aria jazz che nessun altro nostro disco ha. E questo è successo dal primo momento, perché la nostra musica è sempre stata molto caratterizzata, oltre che dalla nostra, come dire, ispirazione del momento, anche dagli strumenti che avevamo a disposizione. Questo ci tenevo a dirlo, perché alla fine delle volte succede proprio che ti infili in una corrente, ma perché stai facendo con quello che hai. Il nostro primo disco era un disco dove la formazione era basso, sassofono, tastiera e batteria elettronica. Disco molto elettronico, anche se aveva le sue ispirazioni melodiche, c'erano le armonie, eccetera, però era un disco elettronico. Nel secondo disco, quello della CGD, arriva il violinista e noi siamo immediatamente zigani, siamo immediatamente mitteleuropei e così. Internal Cut è un disco dove con la tromba di Marco Tamburini veniamo recensiti da siti che si occupano di jazz. Di jazz. Adesso invece torniamo senza apporti esterni, avvalendoci sempre del discorso che secondo me è fondamentale nella storia dell'evoluzione della nostra musica, il discorso del batterista dal vivo, che ha cambiato completamente le nostre prospettive ritmiche. E quindi questo volevo dire che nel corso degli anni la nostra musica si è caratterizzata anche per gli strumenti che avevamo a disposizione in quel momento. Quattro diverse aperture, quattro diversi modi di suonare. Non abbiamo mai avuto una chitarra, abbiamo avuto qualche inserimento di chitarre, ma un chitarrista fisso nella band non c'è mai stato in nessuna formazione. Non escludo che magari un giorno che ci fosse un chitarrista, chiaramente le prospettive musicali potrebbero cambiare. Esatto. Facciamo un po' di nota di servizio, ricordiamo il vostro sito. Il sito è www.centralunit.com, poi abbiamo una pagina su MySpace che è Central Unit Band. A cui comunque si arriva dal sito. Devo dire una cosa, onestamente, il nostro sito non è stato molto aggiornato. Adesso noi abbiamo una pagina iniziale dove ci sono le news, dove per esempio c'è scritto che noi siamo qui stasera. Perfetto. E magari poi ci metteremo anche il link dell'intervista, però non c'è tanto. Invece è più interessante secondo me la pagina di MySpace, a cui si accede cliccando su un bottone. A livello informativo è molto valida anche secondo me la pagina su Facebook. Ci trovate su Facebook, ci sono tutti i link in tempo reale di segnalazioni di interviste radiofoniche, concerti, recensioni, eccetera. Cosa a proposito, volevo proprio salutare un po' di amici invece che ci hanno dato l'adesione su Facebook, e quindi penso ci stiano ascoltando un po' da tutta Italia, e soprattutto ringrazio Gianni a Napoli che ci diceva che stasera ci ha mandato anche qualche messaggio durante la trasmissione. Bene, ricordiamo anche l'etichetta, la MP Records di Vannuccio e Dino, che è qua vicino. E dove si può trovare, Vannuccio, il disco? Ma direi che la cosa più semplice è sempre quella o di cercare su internet qualche negozio che sicuramente ce l'ha, o come vendita appunto su un e-store, oppure può richiederlo direttamente da noi. Il nostro sito è www.mprecords.it e ovviamente possiamo fornirlo in qualsiasi maniera, insomma. Benissimo, benissimo. 23:48. Adesso non so cosa ci sia in scaletta, ragazzi. Ma noi avevamo due possibilità, dobbiamo sceglierne una. Volevamo fare un piccolo accenno al primo disco. Sì, che è quello del disco della famosa classifica a Radio Bruxelles. Esatto. Uno, quello della classifica Radio Bruxelles, contiene quel pezzo Saturday Night, che era un pezzo, come ripeto, costruito per scherzo, per ironizzare su questa moda che andava tanto all'epoca, delle discoteche rock che avevano sostituito le discoteche disco, dove si ballavano i Talking Heads, dove si ballavano, e dove il nostro disco era messo nel centro, nel pieno della serata, e tutte le volte che andava su riempiva la sala. Questo succedeva allo Small di Pieve di Cento, all'Art Club di Bologna, succedeva al Punto Club di Vignola, nelle discoteche rock che andavano all'epoca. Al Tenax di Firenze. Al Tenax di Firenze. Dove abbiamo anche suonato all'epoca. Cioè, anche lo Scindi qua di Bassano. Esatto. E l'altra invece era un pezzo di... Io però farei sentire quello lì. Un altro era un pezzo da Central Unit, il nostro primo album, quello della CGD, che suonava male, che solo adesso suona bene, grazie al lavoro che ha fatto Vannuccio. Sopra, esattamente. Sì. Non so cosa scegliamo. Saturday Night. Sì, andrei anch'io per Saturday. Perché è divertente, poi sì. È corta. Numero 11 abbiamo scelto. Sì, esattamente. Quella. Perfetto, sentiamo quella allora. Perfetto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Allora, due minuti per descrivere il pezzo, vai. E anche il suo significato. E quel significato, nostra storia. Noi, ribadisco, pezzo costruito per scherzo, sostanzialmente dall'intento ironico di Nitti, che dice: adesso con tutte queste discoteche, adesso te lo faccio io un pezzo da discoteca, ed ebbe un successo clamoroso in discoteca, clamoroso per dire, nel senso, questo è un pezzo che ci ha reso conosciuti soprattutto nel nord Europa, perché come lo ballavano qui lo ballavano anche su e lo trasmettevano, l'hanno trasmesso in tutte le radio del nord Europa. È un pezzo che aveva delle caratteristiche molto semplici, c'era questa cosa di cui vorrei dare credito a Poli, che tra l'altro, a Pietro Poli, scusate, Poli è il soprannome, abbreviativo, che tra l'altro in questo brano suona la chitarra, lui è sassofonista normalmente, ma qui suona la chitarra, ed è il doppio colpo, il doppio sparo, che esce il disco dopo, perché per i nostri tempi, ma viene costruito circa sei mesi prima di Betty Davis Eyes di Kim Carnes, che aveva esattamente lo stesso sparo. Noi quel disco lì l'avevamo già fatto sentire prima che fosse pubblicato. Però in effetti il significato per noi è stato quello della non remunerativa notorietà, è quello che poi ha fatto sì che, per esempio, quando abbiamo fatto il disco successivo, nello studio con noi ci fosse Gilles Martin. Mm. Quindi non parliamo di uno che ha fatto i dischi più importanti del disco di Crepuscule, uno, certo, che ha fatto e fa tuttora, è molto molto molto quotato. Sì, esatto. Molto Gilles Martin era con noi perché Peter Principle, che lavorava con lui a Bruxelles, l'ho portato dietro. E perché avevamo questo tipo di notorietà. Poi ribadisco, ci sono delle idee di Pietro Poli che gli do la parola. Sì, fu proprio una cosa molto divertente per me, perché mi cimentai con la chitarra, che ho sempre, diciamo, strimpellato più che suonato, e però alla fine, fra un arpeggio che passa da un maggiore a un minore a una fase ritmica molto influenzata dalla new wave del momento, è venuto fuori un lavoro divertente che mi è rimasto molto caro, direi. La prossima volta che ci vediamo, sì, ci vediamo, Pietro Poli vi racconterà, certo, la storia bellissima di quella chitarra, che era una Fender modificata, molto carina e molto particolare, che è finita sfasciata sul palco dagli Anstirzende Neubauten a Berlino. Ah, però sì. Bellissima storia. Sono andato a recuperarla sotto una montagna di limatura di ferro. sentiremo più nel dettaglio quando avremo più tempo, mi sa. Sì, ci facciamo un appuntamento per il prossimo anno, non so, nei primi mesi del prossimo anno. Abbiamo deciso con gli strumenti, se è possibile stavolta, e la versione del disco nuovo, anche pezzi vecchi, non importa, la vostra discografia, che non è vastissima, ma è tanto complicata, nel senso, da descrivere, da suonare, quello sì. Ma sai cosa, più che complicata da suonare, è che sarebbe bella tutta. Il problema è che non puoi suonare, non puoi dire suono questo perché è l'hit del momento, certo, no, o è il singolo. Ogni brano è bello, ha una propria storia, chiaramente. E abbiamo finito, purtroppo, 23:57. Io ringrazio i Celta Unit, ringrazio Vannuccio che ha collaborato con loro, che è stato il loro produttore di questi ultimi due dischi. Vi do l'appuntamento a voi, chiaramente, nel 2011. E terminiamo con quale pezzo stasera? Detective Fred. Sì. Dice il numero uno, sì, il pezzo numero, sì, uno. No, sì, esatto, il numero uno. È il pezzo che apriva, un pezzo molto particolare, che apriva il nostro primo disco, che comincia con una registrazione fatta al ristorante, cioè un'ambientazione di ristorante, e poi si sviluppa ed era la colonna sonora di un fumetto di Giorgio Carpentieri. Tanto per cambiare, sempre lui. E Detective Fred era proprio il nome del protagonista di quel fumetto, e il pezzo è dedicato a quello. Grazie della collaborazione, grazie di questa bella serata. Ci sentiamo domani con lo speciale natalizio, Michele, dalle 9 fino a mezzanotte. Sei contento? Buonanotte a tutti e grazie. Grazie. Grazie. Blu Radio.